Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo pronte? Pronte, prontissime. E siamo anche in diretta Facebook. Tu ti sei messa carina con il tagliere, io sono pronta invece per prendere l'aereo. Allora per mi tolgo la giacca. Non ti scosciare come l'altro giorno che hai fatto schizzare alle stelle i contatti su Veramente? Facebook. Tutti pronti a vedere le cosce. Mi piace questo, allora domani vengo ancora di nuovo. No, domani non si può. Allora, a proposito di voli, io parlerò proprio di Alitalia questa mattina nella parte di denari, perché naturalmente in questa situazione difficilissima per la ex compagnia di bandiera arriva il prestito ponte da parte dello Stato per garantire l'operatività naturalmente e i voli e la situazione di emergenza attuale. Ci sono però in ballo le situazioni di tutti quei passeggeri che magari sono pronti a partire, che sicuramente nei prossimi giorni partiranno, ma per chi ha prenotato da qui, che ne so, alla prossima estate, al prossimo autunno, perché c'è qualcuno che si prenota con largo anticipo per risparmiare un po', possiamo star sicuri che queste persone potranno fruire dei loro titoli di viaggio? Insomma, ci sono tante domande che si sono fatte in questi giorni tutti i potenziali passeggeri di Alitalia, e allora ne parleremo questa mattina con il nostro collega Maurizio Caprino, in Sole 24 Ore, che salutiamo già, quindi possono già vederlo su Facebook, e naturalmente con alcuni rappresentanti delle associazioni dei consumatori che stanno vigilando molto attentamente su questa vicenda. I cuori invece cosa ci dicono? Allora, il cuore nella seconda parte torna all'appuntamento con Salute Uomo, perché di un balzo siamo arrivati all'ultimo venerdì del mese. Gli argomenti come sempre non mancano, molti spunti ce li fornite voi, altri ci arrivano dall'attualità, altri ancora dalla ricerca, però in generale notiamo, e lo facciamo con grande soddisfazione, una attenzione maggiore, anche una sensibilità più consapevole e matura nei confronti della salute maschile. L'uomo che non deve chiedere mai, Deborah, è stato in parte sostituito dall'uomo che chiede, e lo fa spesso anche scrivendo mail a Radio 24, al nostro programma, per sapere come e cosa fare per mantenersi attivo, efficiente, sano, in una parola per vivere bene. Allora, se è questo che cercate anche voi, siete arrivati al momento giusto, nella trasmissione giusta, iniziate a prenotare i vostri interventi. Per la rassegna stampa un veloce sguardo alla borsa, oggi situazione leggermente positiva sugli indici europei, no, in realtà vedo che in questo momento è di nuovo un po' traballante, positiva Milano più 0,15%, Francoforte meno 0,02%, Parigi più 0,03% e Londra perde un po' di più, ribasso dello 0,26%, giornata di attesa per i numerosi dati macroeconomici che arriveranno dagli Stati Uniti, sono tutti piuttosto importanti, in particolar modo c'è il PIL statunitense. E poi aspettiamo anche appunto una rilevazione sull'inflazione europea, che forse è già arrivata, adesso do un'occhiata alle agenzie ma non ce l'abbiamo ancora, perché arriva forse alle 11, e poi tante trimestrali in arrivo dagli Stati Uniti in questi giorni, occhi puntati in particolar modo sul comparto tecnologico, sono stati diffusi nelle ultime ore i dati di Amazon, di Microsoft, di Intel, e il mercato sembra aver plaudito a questi risultati, perché ieri il Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici, ha toccato il suo ennesimo record, chiudendo con un rialzo sull'indice composito dello 0,4% ed è sopra i 6.000 punti. A Milano stamattina i titoli migliori: Mediobanca più 3,53%, CNH Industrial più 2,68%, Unipol più 2%, Salvatore Ferragamo più 1,90%, i peggiori Ubibanca meno 1,34%, Ricordati meno 0,7%, Enel meno 0,6%. Avete allacciato le cinture di sicurezza? Questo era un aereo che decollava e speriamo che continuino a decollare, noi ce lo auguriamo soprattutto per tutti i dipendenti di Alitalia, le famiglie preoccupate per lo stato di crisi pesantissima che la compagnia è tornata di nuovo a rivivere, anche se forse dobbiamo dire che purtroppo siamo ben oltre lo stato di crisi, perché insomma potremmo quasi parlare di semi fallimento per la società. Nei giorni scorsi i dipendenti di Alitalia hanno espresso il loro no al referendum sul preaccordo per il salvataggio, che contemplava certamente sacrifici molto importanti per tutto il personale. Dunque è saltata la ricapitalizzazione da 2 miliardi che i soci si erano impegnati a fare. A giorni scatterà il commissariamento. Per garantire la liquidità nei prossimi mesi, all'azienda commissariata. Il governo punta ad ottenere dalla Unione Europea il via libera ad un prestito ponte di circa 400 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione della società ha fissato l'assemblea dei soci per il 27 aprile per deliberare in questo proposito, e con un pensiero ovviamente di grande rispetto per i lavoratori e le loro famiglie, come dicevamo poco fa, che vivono ore di estrema preoccupazione. A Cuore Denari oggi ci occupiamo di un'altra possibile ricaduta di questo stato di crisi, quella possibile su coloro che hanno pianificato di viaggiare con Alitalia a breve e nel lungo termine. La compagnia ha precisato nelle ultime ore che il programma e l'operatività dei voli non subiranno al momento modifiche, ma possiamo stare sicuri. Allora, tante le domande che si stanno facendo molte persone in queste ore. Intanto 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, ma come sapete potete anche scriverci al 349 238 6666. Abbiamo con noi in studio, lo abbiamo già salutato, Maurizio Caprino delle Sole 24 Ore, in collegamento telefonico Bruno Albertinelli, vicepresidente di Federconsumatori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E grazie anche a lei, associazione dei consumatori che vigilano attentamente sulla vicenda. Proprio pochi minuti fa è stato diffuso anche un comunicato stampa di Confconsumatori che parla di Alitalia e passeggeri la priorità dimenticata. Nessuna parola, dicono da Confconsumatori, da parte dei vertici della società nei confronti appunto dei passeggeri, e si auspica addirittura un intervento dell'ENAC che pianifichi la protezione dei passeggeri nel caso in cui la compagnia dovesse interrompere l'operatività, circostanza che al momento non è contemplata. Ma insomma, Maurizio, chi dice che da un momento all'altro, soprattutto in vista di questo ponte, cioè il 1° maggio, lunedì, i dipendenti per far sentire la loro voce possono anche scatenare uno sciopero da un momento all'altro e interrompere i voli? Sì, tutto è possibile in teoria, cioè poi siamo abituati da decenni di aquila selvaggia, veniva detta nei TG degli anni 70-80, però oggettivamente queste credo che siano cose abbastanza poco probabili. Poi bisogna intendersi anche su cosa appunto intendiamo per interrompere l'operatività. Allora, oggettivamente non è che adesso, soprattutto perché arriverà quasi certo ormai questo prestito ponte di 400 milioni, non è che arriveremo una mattina in aeroporto e sentiremo dire l'Alitalia non c'è più, non vola più, no. Però il prestito ponte serve proprio a garantire la liquidità per mandare avanti l'attività ordinaria. Serve a garantire la liquidità, però attenzione che stiamo nel fortunato periodo dell'anno, l'unico periodo dell'anno in cui gli aerei si riempiono, quindi più volano e più mettono soldi in cassa, e anche questi soldi servono per garantire l'operatività. In realtà però c'è già un crollo delle prenotazioni, lo leggevo sui giornali di questa mattina, quindi nell'incertezza già stanno cominciando a pagarla in questo senso. Questo è chiaro, però diciamo che io sotto questo aspetto mi sentirei abbastanza di tranquillizzare. Il vero rischio qual è? Che per risparmiare, e anche perché ci dovrebbero essere dei provvedimenti di cassa integrazione abbastanza estesi, salteranno alcuni voli, questo sì. E verosimilmente si comincerà da quei voli che si riempiono di meno, quindi quelli a orari a metà giornata, per esempio, quelli lontani dai momenti topici del weekend. Quindi questo potrebbe succedere, però anche qui diciamo che ci sono delle regole di condotta, codice del consumo, ci sono le riprotezioni e poi soprattutto gli utenti hanno potuto vedere negli ultimi mesi che rispetto al passato l'Alitalia è stata, per variazioni di operatività che sono abbastanza all'ordine del giorno, lo fanno tutte le compagnie, per esempio lo spostamento di un quarto d'ora del volo eccetera eccetera, i messaggi normalmente arrivano anche in maniera tempestiva, e quindi ci si augura che anche questa situazione di difficoltà venga gestita pianificando per tempo le eventuali cancellazioni, gli eventuali ritardi, e quindi i passeggeri possano essere avvisati per tempo. Allora, questi sono dei primi presupposti. Adesso rifaremo Maurizio, tutto quell'ABC che tu hai fatto già in questi giorni sul giornale, così per provare a dare delle informazioni concrete a coloro che hanno già acquistato un biglietto. Nel dubbio, per chi non volesse partire, se lo può far rimborsare andando allo scenario estremo, che al momento non è contemplato, se la compagnia smettesse di volare, quali diritti avrebbero i possessori del biglietto, che tipo di disagi si rischiano concretamente. Il programma Mille Miglia, che tutti temono di perdere, anche se onestamente a me sembra l'ultimo dei problemi fermi in questo momento, però anche questo qualcuno considera. Bruno Albertinelli, anzi guardi, sa che c'è, sentiamo il traffico, poi faccio intervenire anche lei e solleviamo le questioni poste in queste ore dalle associazioni dei consumatori. A tra poco. Cuore e denari. Volare. Anna, devo prenotare un volo per Toronto per agosto. Mi guardo bene, ora di prenotare con Alitalia. Insieme ad Anna, in questa maniera, in queste ore la pensano in tanti. Per fortuna il mercato è competitivo, di opzioni ne abbiamo tante. Detto questo, per chi soprattutto è affezionato agli standard, alla qualità, comunque dell'assistenza, delle hostess, degli steward e di tanti altri aspetti, per qualcuno comunque un po' un gran dispiacere che finisca per l'ennesima volta così, perché in realtà in questi anni, insomma, periodicamente queste condizioni con Alitalia le abbiamo vissute e rivissute. Bruno Albertinelli, vicepresidente di Federconsumatori. Allora, l'Italia tranquillizza nell'immediato chi ha già comprato il biglietto. Per il futuro, però, voi che raccomandazioni, insomma, vi sentite di fare ai vostri associati, a chi si rivolge ai vostri sportelli con il titolo di viaggio in mano ed è un po' incerto se annullare le prenotazioni, rivolgersi ad un'altra compagnia, insomma, sentirsi tutelato al massimo? Ma io credo che è difficile dare un'informazione precisa in una situazione nella quale si trova l'Italia. Credo che anche la maggioranza dei ragionamenti di tutte le associazioni dei consumatori, ma non solo, danno una garanzia, uso questa espressione, per un ragionamento a breve, a 20 giorni circa, e anche all'Italia garantisce che i biglietti presi nell'arco e utilizzati nell'arco di 20 giorni a venire saranno ampiamente rispettati. Però insomma, come il termine dato è brevissimo, direi. Il termine dopo è brevissimo. Il ragionamento è che se io ho prenotato tramite un'agenzia di viaggio o un tour operator un biglietto più soggiorno ad agosto, settembre, giugno, luglio, è l'agenzia di viaggio che deve attivarsi e essere parte attiva per far sì che quel biglietto venga rispettato, e quindi sarà un problema legato molto all'operatività dell'agenzia di viaggio e del tour operator. Il ragionamento è che stiamo vivendo una situazione, come si può dire, di visibilità, mi permetto di dire, giornaliera, esatto. Perché è molto importante che arrivi velocemente il commissario. Bisogna vedere quanto il commissario in breve tempo riesce a rimettere in marcia una macchina che è, come si può dire, profondamente disastrata, passatemi questo termine. Quindi che cosa ha successo, a prescindere dalle considerazioni sul piano industriale che lasciamo fare ad altre trasmissioni, altri conduttori, altri colleghi? Andiamo ai nostri obiettivi, che sono i consumatori, come le ribadisco, con in mano il titolo di viaggio in questo momento. Chi ce l'ha per partire in questi giorni parte. Sì. Dall'estate in avanti, però è la visibilità. Mi rivolgerei, chi ha in mano un biglietto già prenotato, facciamo un ragionamento anche giugno, che è più vicino a luglio. Il consiglio che personalmente mi permetto di dare è di andare velocemente alla compagnia, all'agenzia dove è stata fatta la prenotazione, al tour operator, e cercare di capire com'è la situazione e incominciare a mettere le mani avanti, perché tutto può essere regolarizzato. Il problema è: l'Alitalia rimane in piedi per quanto tempo? Rimane in piedi per quanto tempo? Se rimane in piedi non c'è problemi dell'utilizzo di tutto quello che uno ha in mano, anche le 1000 miglia, se vogliamo, tanto scadono nel 2018. Il problema è se la compagnia entra in liquidazione. Se la compagnia entra in liquidazione, io divento un creditore. Diciamo che comunque, essendoci questa assemblea dei soci per fine aprile, esatto. Sì, per fine aprile, 27 aprile, scusa, no, io il ho detto maggio. Prima il 2 maggio, la prima convocazione era il 27 aprile, sono veramente una sciocca. Quindi è martedì prossimo, quindi diciamo prossima settimana potrebbe essere cruciale, sì, per avere delle informazioni molto più concrete. Maurizio, vengo a te e al tutto vademecum che hai fatto in questi giorni sul Sole 24 rispondendo a tutte queste domande. Da che cosa partiamo? Cosa fare oggi? oggi, ma secondo te, per allora, acquistare un, no, allora io direi, un biglietto? No, allora io direi innanzitutto, chi ha un biglietto, sicuramente è corretta l'informazione secondo cui, se uno ha comprato da un tour operator o da un'agenzia viaggi, il suo interlocutore è appunto il venditore del biglietto, quindi la stessa agenzia, lo stesso tour operator. Mi chiedo quando la gente vada a comprare in agenzia, perché esatto, insomma, problema, ormai tutti online compriamo. Infatti molto spesso questo canale di vendita ormai è confinato a quando uno va in agenzia e si compra un intero pacchetto, ormai, diciamo, quindi compreso il soggiorno. E la poi maggior le agenzie parte vengono utilizzate molte per grandi viaggi aziendali, ma però non per l'individuo. Anche nel caso, cosa può fare la sua agenzia? Non è che può... E lì compra un biglietto con un'altra compagnia, a sue spese. Cioè il rischio fa parte del rischio d'impresa del venditore. Questo è questo da dire. Chi invece sono, come dicevate voi, la maggioranza delle persone, quindi persone che ormai comprano i biglietti direttamente sul web, dal sito della compagnia, lì si continuano ad applicare, perché la compagnia ufficialmente è ancora operativa, quindi si applicano. Quindi diciamo, secondo regole... me andandoci oggi difficilmente la compagnia assolutamente no, perché... te lo rimborsa, l'agenzia ti tutela, esatto, e quando vede... si arriverà, proprio come dire, sperando che non ci si arrivi sul baratro magari, esatto, lì. Quindi voglio ricordare, per quanto riguarda chi ha acquistato sul sito della compagnia, valgono le regole tariffarie della compagnia. Attualmente per i voli diciamo in Italia e in Europa ci sono queste tre classi tariffarie, che tu hai indicato, tra l'economy light, economy light, economy classic ed economy flex. Allora, le prime due, quindi la light e la classic, non prevedono il rimborso, al massimo il cambio di prenotazione con penale. L'unica classe che prevede il rimborso è la flex, però è la cosiddetta tariffa piena, quella che oggettivamente penso che nessuno acquisti, perché diciamo parliamo di fare una tratta di sola andata nazionale fra i 400 e i 500 euro, certo. Insomma, quali altri rischi ci sono per i passeggeri, Maurizio, secondo te, a parte perdere il biglietto, l'annullamento del volo? Questi sono naturalmente, ma il tema magari è chi è già in giro, magari ha un viaggio pianificato per lungo tempo. Andare è andato, deve tornare fra 20 giorni da una località lontana, viaggio, magari non gli sono arrivate tutte queste notizie. Sì, e quindi dovremmo fare in modo che arrivi nota qua, ma non sappiamo come. Sì, ovviamente il rischio, che ripeto, io non lo ritengo molto probabile, almeno in un orizzonte di qui a un mese, credo anche fino a tutta l'estate. È difficile che la compagnia lasci a terra le persone, quindi smetta di operare, però ovviamente se smettesse di operare, chi si trova all'estero, chi si trova in qualsiasi situazione, non ha più l'interlocutore, quindi non ha più le protezioni che sono garantite normalmente, perché appunto manca l'interlocutore che le deve dare. Se invece parliamo di, per esempio, come dicevo prima, una cancellazione dovuta a una ristrutturazione, a un riassetto, una diminuzione dei voli, si mettono gli aerei per terra, si mettono persone in cassa integrazione, allora la compagnia continua a operare e quindi si ha diritto alle riprotezioni che sono normalmente garantite dalla compagnia che opera. Quindi praticamente i pernottamenti, i pasti, cioè tutte le spese per diciamo legate alla permanenza fuori casa in più rispetto a quello che il passeggero aveva prenotato, e l'eventuale riprotezione anche su voli di altre compagnie. Certo. Faremo dopo le 11 il focus sul tema mille miglia, che è molto caldeggiato da molti ascoltatori che hanno migliaia di punti accumulati sulla tessera fedeltà riconosciutissima appunto di Alitalia. Intanto sentirei Michele da Milano, che proprio per la sua situazione sembra essere tipicamente quello richiamato prima da Bruno Albertinelli, ma ammettiamo di avere a che fare con dei passeggeri che devono partire, non lo so, a giugno, ha detto. Infatti Michele è uno di questi. Michele. Buongiorno, saluto le conduttrici. Niente, io ho prenotato un biglietto aereo direttamente con l'Alitalia, partenza fine giugno, rientro dopo 10 giorni, perché faccio 10 giorni di vacanza. Bravo. Volevo sapere il mio biglietto in regola, io l'ho prenotato direttamente con loro, come mi devo comportare? Dove va Michele intanto di bello? Vado giù in Sicilia a Palermo. Allora, Michele, che cosa possiamo dirle noi qua? La sfera di cristallo non ce l'abbiamo, noi speriamo che lei possa partire, però Albertinelli, dobbiamo ridare le indicazioni date prima. Lui dice però ho comprato direttamente con la compagnia, anche rivolgendosi al loro call center, al loro servizio clienti, questi non diranno mai stia tranquillo, glielo rimborsiamo adesso se lei è incerto. Cioè, gli diranno stia tranquillo, noi al momento garantiamo l'operatività. Ecco, questo è naturale. Io credo, lo veniva detto dall'intervento di prima, io penso che se c'è la funzionalità continuativa di Alitalia non è interesse di nessuno, ma sarebbe pazzesco almeno che non ci sia qualche cosa di non conoscitivo, uso questa espressione, dietro a tutto quello che sta succedendo. Sarebbe pazzesco che questa compagnia, ma non solo questa, venisse posta in liquidazione per essere ceduta, perché a quel punto lì si blocca, non c'è nessun ragionamento su biglietti, a quel momento i biglietti diventano un credito che devo chiedere al curatore fallimentare, sono un creditore chirografario, quindi uso una brutta espressione, ci capiamo fino in fondo, auguri per un eventuale rimborso anche sì, parziale, diciamo, non particolarmente privilegiato. La situazione economica di Alitalia, credo che chiunque prenda in mano quel fallimento, io mi auguro che non ci sia mai, ma se qualcuno lo prende in mano è un fallimento, passatemi il termine, povero per i debiti che ci sono alle spalle. Quindi credo che sia interesse ma del paese, passatemi questo termine, del governo, della politica, del mondo economico, anche se vogliamo far sì che almeno far passare l'estate, esatto, direi, che non rimanga so, un po' in di pista, senso. Uso questa espressione all'Italia, che è corretta, e poi che venga ceduta, se deve essere ceduta, a un ragionamento, come si può dire, di tutela, passatemi anche questo termine, da parte, nei confronti di chi lavora, che mi permetto di dire non è chi lavora non ha una grandissima responsabilità nel disastro all'Italia, chiusa la parentesi, e poi dopo credo che si metta in pista un ragionamento più esaustivo, sì, e più corretto. Ci fermiamo, oggi Albertinelli, c'è il giornale radio, sì, ci torniamo su questi temi dopo le informazioni dei colleghi, in tanti ci state scrivendo che avete dei biglietti, ne ritorneremo a parlare tra poco. Cuore e denari. Come fly with me, let's fly away. Adoro questa canzone, anche nella versione di Michael Bublé. Detto questo, avrete capito che stamattina stiamo parlando di chi viaggia, di chi vorrebbe viaggiare con Alitalia, quantomeno perché ha dei biglietti in mano, ma alla luce delle notizie che si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni, naturalmente è lecito aspettarsi qualche preoccupazione. Chiaramente tutto il pieno rispetto dello stato di agitazione dei dipendenti, delle loro famiglie, noi a Cuore Denari oggi ci focalizziamo invece sui passeggeri. Allora, l'Italia ieri con una nota ha ribadito che non c'è stato e non ci sarà alcun impatto dell'attuale situazione sull'operatività e sulla riprogrammazione dei voli operati dalla compagnia. I voli e i servizi, leggo testualmente il comunicato, si svolgeranno come previsto senza alcuna modifica. I biglietti già acquistati sono pienamente utilizzabili. Sul sito web tutti i canali di vendita della compagnia sono disponibili e prenotabili tutti i voli futuri, quindi la compagnia regolarmente invita anche a farlo. I frequent flyer all'Italia possono continuare ad accumulare e spendere come di consueto le miglia per i voli e i servizi della compagnia. E andiamo allora, Maurizio Caprino, insieme a Bruno Albertinelli, vicepresidente di Confconsumatori, proprio a questo argomento, perché io ne ho pochissime. Ma c'è chi ha qualcosa come migliaia e migliaia di mille miglia. Ora, esatto, ribadisco, chiaramente questo è l'ultimo dei problemi di una situazione ben più complessa, però oggettivamente sono dei diritti acquisiti che magari qualcuno vorrebbe far lecitamente appunto valere. Intanto magari il primo suggerimento, farlo il prima possibile. Sì, farlo il prima possibile, anche se questo si scontra un po' con la realtà, nel senso che c'è una corsa, un po' come con le banche, insomma, no? Quando si viene a sapere che traballano, se tutti quanti corrono a ritirare i propri depositi, ovviamente succede qualcosa di indesiderato. La stessa cosa... Ah, dici che magari la compagnia potrebbe dire, senti, siccome siete 500 a voler volare con le miglia... No, ma neanche quello, nel senso che normalmente... è previsto che su ogni volo non più di un tot di posti sia riservato alle... E anzi, per i primi posti le miglia da spendere sono di meno, poi è un po' come con le tariffe, in pratica man mano che il volo si riempie la tariffa aumenta, si passa alla classe tarifaria successiva. La stessa cosa accade con le miglia, quindi se sei fra i primi ti costa 10.000 miglia, e se invece sei fra gli ultimi ti può costare anche 100.000. è la stessa cosa, non sono denaro ma sono miglia, ma è lo stesso meccanismo. Quindi se tutti quanti decidono di riscattare le proprie miglia nello stesso momento, ovviamente prima di tutto li costerà più miglia, e poi avranno comunque il rischio di incappare in un tutto esaurito, nel senso che i posti riservati a chi vola con le miglia saranno appunto esauriti. Quindi in questi casi cosa si fa? Ricordiamo che il programma Mille Miglia prevede non solo un corrispettivo appunto in voli gratis, o meglio neanche gratis, perché poi le tasse aeroportuali si pagano, ed è quello che poi rende l'utilizzo delle miglia poco conveniente sui voli brevi. Sempre dei programmi fedeltà un po' curiosi, però vabbè. Bisogna un po' guardarci dentro, trovarci in queste situazioni, e si scoprono alcuni meccanismi interessanti. Però voglio ricordare appunto che trovandosi dentro in queste situazioni si scopre anche che è possibile impiegare le miglia per altri scopi, come per esempio acquistare alcuni prodotti. C'è una galleria, uno shopping che si può fare online, per cui uno può anche impegnare le miglia nella scelta di questi prodotti. Certo. Quindi ognuno deve guardare un pochettino. Non ha sicuramente in programma di volare o di fare dei viaggi, magari convertirli il più rapidamente possibile questi punti in altra modalità, per non perdere. Possono regalare un frullatore o una centrifuga a noi? Noi proprio non disdegniamo niente. Aspirapolvere. Anche così puliamo l'ufficio qua dentro. Cosa che arriveremo a fare? No, io la scrivania me la pulisco già, per la verità, come fai tu regolarmente con i libri. Io devo dire che sono un po' in disordine. Allora, detto questo, Bruno Albertinelli, allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma più o meno le domande che stanno arrivando dagli ascoltatori sono tutte dello stesso tenore e riguardano i quesiti di chi ha dei viaggi prenotati per l'estate. La zona d'ombra, Albertinelli, è quella, quindi il tema è sicuramente farsi una chiacchierata con l'agente di viaggio se la modalità con cui la prenotazione è stata fatta è questa, per il canale online vigilare attentamente agli accadimenti delle prossime settimane, quindi da qui a fine maggio magari aspettare e poi molto attentamente, quindi il tema è questo, lo diciamo anche alla simpatica signora di Carina, dice 84 anni ancora in gamba, se lo dice lei naturalmente, e noi ne siamo convinti perché ha prenotato e acquistato appunto un viaggio con Alitalia, un volo Palermo-Venezia per il 30 luglio, che peraltro mi consente anche una coincidenza con un autobus per Cortina, che garanzie avrò per quel periodo. Al momento è impossibile stabilirlo, quindi controlli un po' da qui appunto a fine maggio, a giugno, quello che succede. Ma è tutto da vedere, perché poi tra le altre cose potrebbe anche materializzarsi un compratore. Ieri abbiamo avuto la notizia che Lufthansa si è tra virgolette sfilata. Però qui è un po' come la volata in una grande corsa ciclistica, certo. Cioè ovviamente partire con lo sprint prima rischia. Di sicuro non aspettiamoci l'intervento dello Stato, perché quello Padoan l'ha detto, Del Rio l'ha detto, proprio la nazionalizzazione ve la potete scordare. Allora Albertinelli, allora nel caso proprio estremo in cui si deliberi la liquidazione della compagnia da qui a breve, noi non lo ovviamente auspichiamo neanche lontanamente, ma comunque lo scenario estremo, un po' come succede per i mercati finanziari, va lo stesso un po' ipotizzato e delineato. Abbiamo dei viaggi prenotati, dei titoli di viaggio in mano di cui non potremo appunto usufruire. Anche lì voi scoraggiate un po' dall'idea di farsi un viaggio mentale verso un avvocato, perché poi tante volte non è che il gioco vale la candela, no? Albertinelli. Ma il biglietto aereo del soggiorno sarà trasformato in credito, in soldi, uso questa espressione, e poi nella procedura fallimentare, che può essere fatta tranquillamente anche tramite una PEC da casa propria, se uno ce l'ha o se uno se la mette, può tranquillamente insinuarsi come creditore all'interno della procedura fallimentare, augurandosi tutti quanti che non succeda mai questo. Il ragionamento è quello che provavo a dire prima: l'ammontare dei debiti di Alitalia, se caso bruttissimo falliste, sarebbe un fallimento, passatemi il termine, povero. E quindi in un percorso di un certo tipo prima vengono pagati i creditori privilegiati e poi, se rimane qualche cosa, i chirografari. Io che ho acquistato un biglietto per andare a Venezia, per andare in Marocco, per andare da qualsiasi parte in Europa, in Italia, e l'ho pagato e nel frattempo la compagnia è fallita, farò tutta questa procedura, però non c'è, assolutamente non è necessario rivolgersi a un avvocato. Questo va detto, posso tranquillamente, quando c'è la procedura fallimentare aperta, lo ripeto, tramite una PEC, insinuarmi nel fallimento, mi insinuo come creditore chirografaro e poi la speranza è che ci sia un qualche cosa di ritorno, chiusa tutta la procedura per quelli che sono i privilegiati. Volevo ribadire abbiamo capito Albertina, ribadire qualche raccomandazione, qualche indicazione di massima a quegli ascoltatori che hanno prenotato con Alitalia ma volano con altra compagnia perché appunto ci sono questi accordi. C'è un ascoltatore che ci scrive: ho prenotato per Miami un volo con Delta operato dall'Italia con Delta. Maurizio. Sì, lì praticamente dipende da chi si è acquistato il volo, quindi la compagnia che ha venduto il volo risponde. In questo caso, se il volo è operato da una compagnia diversa dall'Italia, ovviamente quel volo avrà luogo lo stesso, perché quello è un volo dell'altra compagnia, quindi l'Italia semplicemente ha acquistato dei posti lì a bordo, quindi verosimilmente questa obbligazione potrà essere onorata. Nell'ipotesi contraria no, ovviamente, perché tutto dipende se il volo davvero ha luogo. Auguriamoci che questo possa accadere anche per i voli all'Italia in tutto il futuro, però questo ovviamente non abbiamo certezza. Ribadendo che viaggiamo naturalmente anche noi nel terreno ignoto, nel terreno dell'imponderabile in questo momento, l'ultima raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori in 30 secondi, Maurizio, allora, poi ci salutiamo. Allora io onestamente guarderei anche i voli delle altre compagnie. Bravo, muovono, perché, un termometro interessante. Esattamente, quindi se voi tenete monitorati i voli delle compagnie che fanno le stesse tratte all'Italia che vi interesserebbe fare e vedete che c'è un'impennata di questi prezzi, allora evidentemente significa che la gente sta prenotando in massa sulle altre compagnie, o sta succedendo che le altre compagnie, prevedendo, perché hanno magari qualche informazione in più di noi, prevedendo ci sia un esito infausto, insomma cominciano ovviamente a vendere i biglietti a prezzi più alti. E questo però ci induce una riflessione, ossia se l'Alitalia viene meno una parte importante di concorrenza, quindi anche quelli che parlano di compagnia mantenuta dallo Stato eccetera eccetera, attenzione, infatti, perché è comunque una spesa a favore della concorrenza. Albertinelli se la ride. Volevo solo dire un'ultima cosa, perché Nicoletta notava su WhatsApp tanti messaggi da parte presumibilmente da titolari di agenzie viaggio che contestano un po' la modalità con cui abbiamo commentato quello che dovrebbero rifare loro in termini di protezione per i passeggeri. Allora guardate, magari nei prossimi giorni faremo una bella trasmissione anche con la vostra partecipazione. Detto questo, sicuramente rispetto ad altri canali di acquisto dei biglietti, un'agenzia ha un rapporto più diretto, faccia a faccia con la clientela, quindi io direi che quantomeno eticamente, deontologicamente parlando, ha l'obbligo morale di avere una relazione diversa rispetto agli altri canali. Ecco, esatto. Albertinelli, grazie per essere stato grazie con noi. Buon lavoro, grazie anche a Maurizio Caprino, ma ci torneremo su questo tema, seguiremo costantemente questa situazione. E voi continuate a seguirci, siamo in diretta Facebook. È vero, l'abbiamo ricordato solo all'inizio. Lo ricordiamo nuovamente, è tornato a trovarci Andrea Salogni, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, il nostro ospite fisso dell'ultimo venerdì del mese. Ciao Andrea. Ciao. Io non posso più solo dire andrologo, urologo, professur, ma devo aggiungere anche scrittore, perché l'avevamo anticipato, ma adesso è proprio uscito con Mondadori il libro Domani chiameranno domani, e quindi si aprono i festeggiamenti anche dovremmo oggi qua a Cuore Denari. Vero? Sì, hai portato qualcosa per festeggiare? Hai portato il libro? Ho portato che il libro io sto già leggendo, che è già in regia, che poi vi faremo vedere, di cui vi faremo vedere la copertina. Bella emozione. Come ti senti? Diverso? Mi sento un po' diverso, è una cosa completamente nuova, una è una dimensione molto strana, molto interessante. davvero. Mm-hmm. È un po' mettersi a nudo, molto di più di quanto non si faccia nella quotidianità, discutendo di temi molto sensibili. Oggi l'ho anche scritto nel mio editoriale. C'è un editoriale molto bello, vogliamo anticiparlo? Il sesso non è una cosa sporca? Sì, esatto, ed è per quello che dico, cioè nel romanzo ho raccontato di una vicenda estremamente peculiare e l'ho raccontata spogliandomi di molte delle preclusioni mentali che mi avrebbero condotto in epoche diverse a dare dei giudizi, e l'ho fatto in modo totalmente asettico, non voglio rivelare di che cosa si racconti, però ho parlato di un uomo, guarda mm-hmm. caso, e del rapporto che ha con la sua persona in primo luogo e con la sua famiglia obbligata da un altro punto di vista, e ho anche discusso del tema della propria intimità. Ed è stato molto diverso rispetto a quello che succede nella mia quotidianità davanti ad un paziente che si siede davanti alla mia scrivania raccontandomi di sé. E ciò che è peculiare per chi fa il mio mestiere, che è medico da un lato, ma che si occupa di temi molto sensibili, se vogliamo molto più intimi e sensibili di quanto non siano certo. gran parte delle tematiche mediche, la medicina della sessualità ne è estremamente prova. Soprattutto nell'uomo, posso aggiungere, soprattutto Andrea. Nell'uomo, per tutto ciò che in tutti questi anni di lavoro insieme con te e con Deborah abbiamo fondamentalmente ribadito. Bene, scriverlo nero su bianco, il romanzo ha una copertina che è nera e rossa, se posso dire anche un po' affascinante, però scriverlo nero su bianco è stato molto diverso, una dimensione totalmente altra rispetto a raccontarlo o discuterlo con l'uomo che ho di fronte, di qualsiasi età esso sia. È stato estremamente bello, se posso dirlo. Allora, c'è chi, se volete saperne di più, 800 24 00 24, c'è chi si dà alla scrittura, chi al cinema, vero, Andrea, come vero, succede nel film, in un film di cui vi facciamo sentire un breve trailer. Siamo qua riuniti al cospetto del Signore per dare l'ultimo saluto al nostro amico Carlo. Per Smile Factor, programma televisivo di prossima. Allora sì, quello che state ascoltando è proprio il trailer del film Smile Factor al cinema dal 20 aprile, che racconta le peripezie dei quattro protagonisti che dopo la morte di Carlo Conti, che si toccherà, vengono l'hanno avvisato, si toccherà, lo dice Andrea che è un andrologo, quindi si può dire chi meglio di noi. Ecco, vengono convocati dal notaio che leggerà il testamento del conduttore. Non vi svelo altro, se non che c'è una scena, Andrea, perfetta per noi, per Salute Uomo, la visita dall'andrologo. Quindi esatto. ci hanno un po' pensato. Io e Deborah diciamo sempre, ci hanno un po' copiato. Esatto. Abbiamo ispirato. C'è pure il testamento, quindi la parte di denari sarebbe stata opportuna. Allora noi coinvolgiamo subito il nostro nuovo ospite, il dottor Nicola Mondaini, che è andrologo, consigliere nazionale della SIA, che è la Società Italiana di Andrologia. Dottore, buongiorno. Nonché amico caro. Amico caro di Andrea Salonia, un medicatore direi, perché anche lei si trasforma, è un protagonista del film. Nella scena specifica lei tra l'altro è proprio dall'altra parte della barricata, perché interpreta il paziente. Sì, l'idea è stata quella che chiaramente da 20 anni la Società Italiana d'Andrologia cerca di promuovere la salute dell'uomo, e quindi faccio complimenti prima di tutto alla vostra trasmissione, che so che da 2 anni e mezzo che proprio si occupa di questi argomenti. E, bravo, grazie, ci fa molto piacere. No, questo è un bollino. Non è un bollino. No, assolutamente. Qui sono molto. Ti seguo anche, infatti voglio fare i complimenti sia a Nicoletta che a te. Grazie. Andrea chiaramente lo conosco, è un amico e di cui sto leggendo questo libro che veramente consiglio a tutti, perché è veramente scritto bene e è una storia importante. Sì, che arriva insomma, al cuore, leggere, vero? Che sì. arriva al cuore, esatto, sì. arriva al cuore. È un libro che si legge con a 5 sensi, direi. Adesso divento verde, non più. Adesso lui, Andrea. Allora, dottor Mondaini, lei diventa attore in questo film, sì. insomma, le tentate tutte. Ci racconti, andiamo alla scena clou, che la vede protagonista, perché lei sì. non è medico, ma diventa paziente. Esatto, fondamentalmente l'idea è stata questa. Noi, come dicevo, è 20 anni, la Società Italiana d'Andrologia cerca di promuovere la figura dell'andrologo intesa un po' come il ginecologo dell'uomo, quindi noi sappiamo bene come le donne abbiano un punto di riferimento nel ginecologo, questo manca tutt'oggi nell'uomo. Quindi da 20 anni si fanno campagne di promozione utilizzando i canali convenzionali come la televisione, i media, i social, il web, Negli ultimi due anni abbiamo tentato delle strade diverse, l'anno scorso abbiamo tentato con un'esperienza con la Nazionale Cantanti e ci ha dato degli ottimi risultati, quest'anno siamo approdati al cinema con una scenetta dove il presidente della Società Italiana d'Andrologia, il professor Palmieri, interpreta il medico e io faccio il malato, cercando di portare il messaggio di come questi uomini fanno fatica a rivolgersi allo specialista e come chiaramente cerchino sempre di minimizzare le loro problematiche. Quindi questa piccola scenetta, io sono un paziente che ha tutta una serie di problematiche andrologiche e che viene portato dalla moglie a fare questa visita. Ecco, portato dalla moglie, direi che è un classico, no? Dottor Mondaini. Sì, direi proprio un classico, infatti spesso la donna colei che fissa le visite, qui c'è anche Andrea, lo può confermare, e spesso l'uomo fa veramente grande difficoltà a parlare di questi argomenti e poi sono importanti anche per la salute generale. Andrea. Non posso che essere d'accordo con Nicola. Nicola, peraltro, che è istrionico in tutte le sue manifestazioni, ha, secondo me, in queste sue manifestazioni artistiche un pregio che è quello di avere il know-how di chi si occupa di andrologia, certo, tutto tondo, e lo faccia da tanti anni, e in più ha una capacità espressiva che, se posso dire, Nicola, un po' deriva dal suo toscanismo, sì, perché in parte questo, insomma, è da dire. Insomma, dottor Mondaini, un attore nato. Sì, un attore nato. Un attore nato. Allora l'aspettiamo qui, così faremo anche con lei una diretta Facebook, in modo che la vediamo in carne e ossa e la vediamo proprio all'opera. Verrà qui e farà il paziente in una prossima puntata di Salute Uomo. Ma volentierissimo. Sarà, permettetemi, divertente, di ringraziarvi, di ringraziare anche Gaetano Gennai, che è colui che ha scritto il film e l'ha diretto, che mi fa piacere ringraziare, ci ha dato questa opportunità di partecipare, e vi lascio veramente con un complimento alla vostra trasmissione e un invito a leggere Andrea Savoia. Grazie, è veramente unico. Grazie. Grazie mille. Bene. Buona, ciao, giornata, Nicola. Dottore. Ho 7000 caffè. Li ho già presi perché. Allora, no, pausa mercati o pausa caffè? Pausa caffè, tra l'altro io ce l'ho qui perché sono le 11.27, giusto, abbiamo ancora qualche minuti, sì, qualche minuto, allora caffè sia. Intanto chiedo ai nostri amici a che numero di tazzine sono arrivati, sono le 11.27, 800 24 0024, parlo però di caffè rigorosamente preparato all'italiana, perché Andrea, intanto tu quante ne prendi, che sei un andrologo, urologo, scrittore, amico? Di cuore denari, aiuto, e in diretta, aiuto, Facebook, aiuto, che fai ridere Carmelo. Sì, io prendo tanti caffè, ne prendo all'italiana, ahimè, tra i 4 e i 6 al giorno. Quindi preparato all'italiana, cioè con alta pressione, temperatura dell'acqua molto elevata e senza l'uso di filtri. Esattamente. Questi sono sostanzialmente caffè diversi. È molto bello sottolineare, poi parleremo e diremo il perché di questo, ma è molto bello sottolineare all'italiana, il che non vuol dire che io non apprezzi il caffè a tutto tondo. A me, certo, piace moltissimo, cioè, come ben sapete, una famosa compagnia americana che probabilmente aprirà anche in Italia, il cui caffè è servito all'americana, un caffè nero di un'intensità e di un blend veramente particolare, è molto buono. Di base però il caffè all'italiana ha tutto un gusto suo e ha il fascino della modalità con cui in Italia viene preparato e si inserisce nel connubio di tutte le altre cose della dieta, che sono assolutamente uniche. E poi piace anche alla ricerca, perché la ricerca è andata proprio a studiarlo. Sì, sì, sì. Ci sono due modalità di interpretare questo, come tutti quelli che la ricerca chiama fattori ricreazionali: il caffè, il tè, il vino, il cioccolato. Ciascuno di questi elementi ha nella ricerca dei pro e dei contro. Vi faccio due esempi banali. La più importante delle meta-analisi, che vuol dire l'analisi di tutti i dati ad oggi pubblicati su una determinata tematica, che abbiano rigore di scienze, che quindi possano essere documentabili con numeri che spesso traducono delle idee. Bene, l'analisi di tutti i dati ci dice che da un punto di vista della correlazione tra assunzione di caffè quotidiano e, ad esempio, rischio tumorale, le informazioni non sono univoche, ma quello che sappiamo è che esiste, ad esempio, un minor rischio nel bere caffè aggiungendo una tazzina, e il tumore del fegato. Quello che è molto nuovo è quanto oggi pubblicato, cioè esiste una minor probabilità di avere tumore alla prostata se si bevono almeno 3 caffè prodotti all'italiana al giorno. La cosa più interessante è che questo dato emerge da uno studio che si chiama Molise, che è uno studio pubblicato dei molisani. Sui molisani, cioè su una popolazione che, se vogliamo, abita in un contesto meraviglioso, con tutto un insieme di fattori protettivi derivanti dall'ambiente, dall'aria pura, dall'acqua, eccetera, eccetera, e da un'alimentazione strepitosa. Però lo studio non è solo tale da dirci: nell'uomo la probabilità che bevendo almeno 3 caffè al giorno tu riduca la probabilità di avere un tumore alla prostata, i dati lo dicono. Lo studio viene corroborato dal fatto che anche la preclinica, cioè quello che noi chiamiamo in scienza ricerca di base, sembra sostenere come, se mettiamo la caffeina, che è la molecola all'interno del caffè importante, che è quella che ha mostrato effetti protettivi, esattamente, è la molecola che ha effetto protettivo, messa con delle linee di cellule, cioè scorporate l'idea di avere un corpo fatto e finito, ma di avere solo le cellule della prostata e le cellule di tumore. Bene, la capacità di crescere, di replicare, cioè di far danni delle cellule di almeno 2 linee, cioè di 2 tumori con caratteristiche diverse, è stata fortemente inibita. In scienza si dice significativamente interrotta o antagonizzata dalla caffeina presente. Il che vuol dire che il dato che noi chiamiamo sull'uomo, cioè clinico, è fortemente corroborato dal dato preclinico. Allora, aggiungo 2 riferimenti prima di andare ai mercati. La ricerca è condotta da Neuromed di Pozzilli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Come ricordava Andrea, i partecipanti sono stati seguiti allo studio epidemiologico Molisani, un progetto che proprio nasce in Molise con l'obiettivo di studiare l'interazione tra fattori genetici e fattori comportamentali e ambientali nel mantenere o nel promuovere la salute oppure nell'insorgenza di malattie cardiovascolari. Il Molise in pratica è diventato un laboratorio a cielo aperto, e questo progetto mi piace molto. Ne avevamo parlato anche col professor De Gennaro. Noi andiamo, vogliamo, noi possiamo volare ai mercati, vogliamo. E intanto bevetevi un caffè, insomma, sembra un buon caffè all'italiana. 3 caffè al giorno, più di 3 tazzine al giorno proteggono dal rischio di tumore alla prostata di oltre il 50%. Andiamo. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Posso ancora fare sesso io, signor giudice? Oggi purtroppo ho la mia risposta. No, non mi è più possibile. È un no non perché qualcuno me lo proibisca, credo, ma perché io sto illanguidendo, mi sto spegnendo giorno dopo giorno. Non sono più capace di sentire il profumo della mia Graziella, non l'odore del suo sesso. I suoi baci non sono più i miei baci. La sua bocca non ha più gusto per me. Oggi sono orfano di Graziella. La mia pelle non la sente. Il mio sesso non la sente. È come se non fossi mai stato lì. Ecco perché con gli arresti domiciliari non posso più fare sesso. Non c'è più gioia e neppure estasi nel mio corpo. Siamo rientrati con un breve estratto del libro di Andrea Salonia, Domani chiameranno domani, edito da Mondadori, che racconta la storia di un uomo agli arresti domiciliari che perde progressivamente i sensi, tra cui il tatto. Un senso che ha un ruolo molto importante anche per e nella sessualità, Andrea. Un ruolo, sai che lo stavo chiamando Alberto Pellai, perché anche con Alberto abbiamo fatto delle puntate un po' al limite tra psicoterapia e andrologia. Un ruolo cui spesso non abbiamo, non diamo il giusto peso. Andrea, entriamo nel tuo ambulatorio, perché anche di sensibilità e di tatto si occupa un andrologo e un urologo. Ah, ci picchia. Se nel corso delle puntate di Salute Uomo abbiamo tante volte parlato di sessualità, ma abbiamo parlato anche di temi di cui difficilmente gli altri hanno mai parlato. Il primo che mi viene in mente è la fimosi, la circoncisione nei ragazzi. Abbiamo invitato Arianna Lesma a parlarcene, sì, discutendo di quanto l'adolescentologia sia una tematica e una scienza, se vogliamo una corrente della scienza, così delicata. Perché? Perché molto spesso nel periodo adolescenziale, ad esempio, i ragazzi che hanno un'eccessiva pelle o una pelle che stringe il pene a livello del glande hanno difficoltà, e lì la sensibilità, il tatto risulta essere importantissimo. Perché? Perché il più delle volte è compromesso, non c'è percezione di sensibilità tattile. Molto spesso questo porta ad un'alterazione della qualità della sessualità tutta. Questo, se è vero negli adolescenti, è ancora più vero nei soggetti che hanno nella sessualità una piena espressione della propria del proprio essere vitale, e questo è un dato significativo. Se solo pensate che spesso i soggetti che noi sottoponiamo, dico noi in quanto chirurghi che si occupano della chirurgia della pelvi, ad esempio per il tanto vituperato tumore della prostata, di cui forse parleremo anche dopo. Parleremo anche perché dopo, è arrivata una lettera che abbiamo selezionato per il nostro spazio, il Beh, piccolo quello grande che uomo. Sappiamo è che spesso i pazienti riferiscono dopo chirurgia maggiore del pene, non solo, una perdita di sensibilità, e chiaramente questo non significa ho perso o ottenuto un'erezione, a cui la più parte delle volte si fa riferimento come la sessualità dell'uomo. Non è solo quello. I pazienti riferiscono, me lo dicono in ambulatorio, lo dicono a tutti gli andrologi, a chi si occupa di questo nella quotidianità, anche il capire che cosa c'è di fronte, che cosa c'è accanto, il tatto a livello dei genitali, delle mani, a livello della propria pelle è fondamentale. Ci sono pazienti che riferiscono di non avere capacità di sentire con il proprio pene, se possiamo dire questo, di non avere la percezione di avere sensazione tattile relativa al proprio corpo, che nella genitalità, ahimè, ha un'importanza enorme. 800 24 00 24, abbiamo sdoganato perché anche questo, sì, questo tema, perché è importante fare informazione, non dobbiamo avere pudori, sono no, delle l'abbiamo detto tante volte, parlare di sessualità e confrontarsi con un esperto vuol dire fare un investimento sulla salute, perché la sessualità è espressione della salute tutta, sì. Andate a leggere l'editoriale di Andrea Salonia. E intanto c'è una dalla diretta Facebook, c'è un nostro ascoltatore che ci sta seguendo dalla Grecia, dall'isola di Rodi. Che meraviglia! Con un bellissimo sole, ci fa i complimenti. Noi naturalmente lo salutiamo, vorremmo essere lì con lui. Anche se anche a Milano è venuto un bellissimo sole dopo una tempesta di pioggia notturna. Allora, noi stiamo meglio a Milano nel nostro studio, vuol dire Andrea, perché è in nostra compagnia, e ha certo, ragione. Ovviamente. Ma anche perché abbiamo Antonio da Bergamo e Luigi da Lecce. Antonio, buongiorno. Buongiorno, Bergamo proprio, insomma. Volevo fare una domanda. Non so, a Milano, lei da dove chiama, Antonio? Io chiamo da Bergamo, provincia di Bergamo, sono allora napoletano. Meglio per lei. Sempre lì è. Non lo so. Vabbè, dai, allora. Volevo fare una domanda al dottore. Io sì, soffro di prostatite da un po' di anni. Vabbè, la sera prendo... Antonio l'abbiamo perso. Allora, tema prostatite lo teniamo lì. Andiamo a Luigi da Lecce. Buongiorno Luigi. Salve, buongiorno. Io volevo porre una domanda. Se l'attività sessuale dopo i 60 anni, oltre che prevenire l'adenoma prostatico, perché da quello che ho letto previene l'adenoma prostatico, l'attività sessuale intensa, c'è un'evidenza scientifica anche per la prevenzione del tumore del adenocarcinoma. Perché così uno insomma già, intensifica, così, no? Intensifica, e nel caso si sacrifica per quello, per fare prevenzione. Andrea, molto... Luigi, sarebbe un'ottima scusa. Posso anche dire non c'è bisogno di scuse per farlo, tanto no, non c'è niente di sporco. Bravo, assolutamente. Bravo, che meraviglia, non c'è niente di sporco. Appena detto quanto io ho utilizzato per intitolare il mio editoriale. Ci sono tre cose che mi piacerebbe sottolineare di Luigi. Primo, la città da cui viene, che è strepitosa. Bellissima, vi invito ad andare in quel Salento e a vedere quanto bella sia Lecce. La seconda cosa è legata e quanto al buoni fatto... siano i pasticciotti. Tutto a Lecce, forse ancora meglio a Galatina, se posso permettermi, ma questo è va un bene, personale giudizio. Da un punto di vista pratico, che cosa ci dice Luigi? Ci dice che esiste la possibilità di utilizzare il sesso come modalità di tipo preventivo, cioè come campanello d'allarme quantomeno. Non si può proprio dire che fare sesso protegga dall'avere un tumore prostatico, questo è estremamente difficile. Ci sono state varie analisi relative al fatto che eiaculare possa o meno proteggere dalla comparsa di infiammazione a livello prostatico e che l'infiammazione sia in un continuum associato o meno a tumore, ma quello che certamente possiamo dire è che spesso i pazienti che vengono in ambulatorio e che hanno problematiche di erezione hanno tumori misconosciuti della prostata, e questo è un dato rilevante perché è vero anche per i tumori del pene e per i tumori del testicolo. Ormai è dato acclarato il fatto da più di 20 anni che la più parte dei soggetti che arrivano in ambulatorio non sono completamente sani e che quindi la problematica di erezione possa essere un campanello d'allarme del problema urologico, anche oncologico, di cui il nostro amico da Lecce ci ha appena parlato. Un altro ascoltatore, abbiamo Jacopo da Livorno, buongiorno e benvenuto Jacopo. Buongiorno, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, vi seguo spessissimo. Grazie. Volevo fare una domanda per Salute Uomo, allora innanzitutto faccio, diciamo, faccio outing, nel senso che io frequento un andrologo, ecco, quindi... È fondamentale, non è un danno, perché fa outing? A parte che fare outing sembra non è, quasi dover fare coming out per confessarlo. Era una battuta, ecco, certo. Chiaramente. No, certo. Siamo solo contenti che lei lo dica. Ecco, allora io volevo fare una domanda perché ne devo parlare anche con l'andrologo, ma appunto mi è venuta in mente in questi giorni. Allora, io mi sono rivolto all'andrologo per un problema, non di disfunzione, sì. Disfunzione erettile, nel senso che sento mancare l'eccitazione e mi sono accorto che manca da un po' di tempo la famosa, diciamo, erezione mattutina. Sì. E ora io vengo da una famiglia di diabetici, volevo sì. Sapere l'eventuale correlazione fra glicemia alta, ma io non ho il diabete, però forse un po' di glicemia alta, sì, fra la glicemia alta e i problemi appunto di questo tipo, se c'è, se no. Grazie a Jacopo per la prima domanda. Prima di entrare nel merito, avevamo fatto una puntata con un tuo collega del San Raffaele a proposito di glicemia alta. Spesso passa il concetto io ho un po' di diabete, ecco, iniziamo da qui perché è importante mettere un po' i tasselli a posto. Quando la glicemia è alta, il diabete non c'è o poco o tanto o tantino. Andrea, aiutami luogo, tu a sì. Partire da questo che è importante. È estremamente importante. La prima cosa fermiamoci, c'è l'informazione sul traffico e poi andiamo riprendiamo. E poi subito dopo con la nostra rubrica Il piccolo grande uomo che ci aiuta a tornare ancora sul tumore della prostata. Sì. Cuore e denari. Eccomi, siamo ritornati di nuovo insieme, ultima parte di Salute Uomo, riprendiamo parlando raccogliendo lo spunto di una domanda di un ascoltatore che ci chiedeva se ci può essere una relazione tra tra la glicemia, in questo caso alti valori di glicemia, e problemi legati alla sì. Disfunzione. Allora, per rispondere in modo molto conciso, il diabete c'è o non c'è? Ci sono due tipi di diabete, un diabete di tipo primo, un diabete di tipo secondo, un tempo descritti in altro modo ma oggi così definiti, ma o c'è o non c'è. Esiste un concetto legato al valore assoluto della glicemia, cioè quello che andando a fare i prelievi del sangue al mattino riusciamo a dosare, ed esiste ovviamente quella che poi è la curva glicemica, cioè la variazione dei valori di glicemia nel sangue in funzione degli orari della giornata e del fatto di aver ingerito meno del cibo. Quello che si può discriminare è quella cosiddetta intolleranza glicemica, cioè il fatto che il nostro corpo sia un po' meno capace di metabolizzare gli zuccheri. Quello che oggi emerge fortemente è che tendenzialmente abbiamo in alcune condizioni quella che si chiama resistenza insulinica più elevata, il che vuol dire che gli ormoni che dovrebbero metabolizzare gli zuccheri a livello sanguigno lo sanno fare in un modo meno valido, meno efficace, e sembra che molte delle malattie andrologiche, dalla sessualità alla riproduzione, siano fortemente associate a questa resistenza insulinica elevata. C'è un altro aspetto importante. Chiunque abbia una terapia in atto che serva per migliorare la qualità dell'erezione ha il dovere, tra virgolette, di correggere la propria glicemia qualora fosse diabetico, perché, ahimè, il valore di risposta di qualsivoglia tipo di farmaco aumenta a fronte di un buon controllo glicemico. E se proprio dovessimo andare agli estremi, non c'è una terapia medica che io possa utilizzare perché l'erezione mi ritorni, e dovessi ricorrere ad una chirurgia, un buon chirurgo non suggerirà mai una chirurgia a meno che i valori glicemici siano i più controllati possibili. Questi sono tre aspetti importanti: prevenzione e terapia e controllo in casi estremi. Adesso apriamo la nostra rubrica Il piccolo grande uomo. Andiamo. Carissimi, pure voi ne avete parlato, ma ancora non mi riesce di capire. Io il PSA l'ho fatto con tanto di prelievo e tutto il resto. È venuto alto, diceva il mio urologo, e a 65 anni era davvero troppo alto per stare solo a rimirarselo. Poi il mio urologo mi ha consigliato di eseguire una risonanza magnetica. Poi, ancora, ho fatto delle biopsie della prostata che il medico ha chiamato di fusione, perché fondono le informazioni, non i metalli. Oggi, da ultimo, il mio urologo mi ha detto che non devo farmi operare. O meglio, ha detto che tra le varie possibilità di terapia, lui suggeriva fortemente di stare a seguire il mio tumore. Non serve operare, non serve fare raggi. Ma allora, sto tumore, è o no un tumore? Eccoci qua. Allora, il nostro amico Andrea ci offre l'opportunità di tornare a parlare di PSA e di provare ancora una volta a fare chiarezza. Quindi, se lo avete controllato da poco, se ancora non l'avete fatto, se avete dubbi, timori, parliamone. 800 24 00 24. Come dice Deborah, iniziamo con una carta di identità. Iniziamo a dire che allora è un indicatore di possibili malattie della prostata. Esatto. Qua fa il professore. Quindi è un esame esclusivamente maschile. È indicato a chi ha avuto una diagnosi di un tumore alla prostata per tenere sotto controllo la malattia e in chi ha disturbi che ne fanno sospettare la presenza. Assolutamente sì. Innanzitutto è un biomarcatore, cioè un marcatore biologico che definiamo organo specifico, perché è prodotto esclusivamente dalla prostata, non malattia specifica, il che vuol dire che un suo valore alterato non per forza di cose esprime la presenza di un tumore. Però da un punto di vista pratico sappiamo che quantomeno viene prodotto solo da lì e quindi è probabilmente, almeno nel sesso maschile, il più importante di tutti i marcatori che abbiamo. Il fatto che non sia capace di predire in assoluto la presenza di un tumore ha reso molto discutibile il suo utilizzo ed è stato ampiamente criticato, non solo in Italia ma in Italia in modo abbastanza acerrimo, il fatto di poter utilizzare questo biomarcatore per fare uno screening, che significa in teoria andare ad usare il valore del PSA in tutti gli uomini serialmente ad un determinato momento, cioè ad una determinata età, per discriminare quelli che hanno o non hanno tumore. Quindi possiamo dire che il suo uso per la diagnosi precoce in persone senza sintomi, cioè come test di screening, sì, è ancora discusso. È il discusso, PSA della discordia. Però noi abbiamo già detto più volte a Salute Uomo, questo in termini di screening è discusso, ma noi sappiamo benissimo che oggi, ed è pratica comune per gli urologi, fare un dosaggio di PSA o suggerire un dosaggio di PSA agli uomini tra i 40 e i 45 anni, che vuol dire quasi una decina d'anni prima di quanto già non dicessimo 10-15 anni fa, perché quel valore dovrà essere sotto un nanogrammo millilitro, più vicino a 0,4 che non a 1. Perché? Perché quello ci dirà nei successivi anni quale sia la possibilità di quell'uomo di sviluppare un tumore aggressivo. C'è un elemento importante: il fatto che in Italia, e ce l'hanno detto, poi magari tu lo introdurrai meglio, durante l'ultimo e l'ennesimo congresso della Società Italiana di Urologia Oncologica, che in pratica la probabilità che un uomo abbia un tumore in Italia è cresciuta. È cresciuta anche perché le capacità di diagnosi sono più raffinate, la sensibilità del metodo è più raffinata. Cioè io riesco ad andare a cogliere la presenza di questo o quest'altro problema con maggiore probabilità di quanto non fossi capace di farlo prima. Il dato più rilevante è che non ho solo individuato tumori, in questo caso parliamo di tumori della prostata ovviamente, di tipo aggressivo, ma ho soprattutto individuato quelli e sono riuscito a discriminare chi dovesse e chi non dovesse essere operato o trattato. Per cui la letterina del nostro amico è estremamente perfetta, importante. E considerando che è vero che il tumore alla prostata è la neoplasia più diffusa nell'uomo, ma quasi un caso su tre ha dimensioni ridotte, anche aggressività minima, sì, e di conseguenza può non essere trattato. È probabilmente il caso del nostro amico. Quindi è sufficiente osservarlo nel tempo, ecco, però, con attenzione. Nicoletta, brava, ecco, questo è l'aspetto importante. Come è stato proposto al nostro amico dell'appuntamento, sì, ma questo controllo a volte, la lettera lo dimostra, viene vissuto con preoccupazione. Però sì, mi piace ricordare e sottolineare, a beneficio dei nostri ascoltatori, che l'Italia è alle avanguardia in Europa per quello che riguarda la sorveglianza attiva nel tumore della prostata, e questo è un dato di cui si è discusso proprio al congresso della SIURO, dove, a cui faceva riferimento Andrea Salonia. Andrea, parliamo solo di che cosa significa esattamente sorveglianza attiva, cioè sì, in un minuto e mezzo. In un minuto e mezzo, anche meno. Sorvegliare significa stare col fiato sul collo, cioè posticipare un'eventuale diversa terapia qualora si rendesse necessario. Non significa stare al terrazzo e guardare fuori il mare, vuol dire fondamentalmente tenere il fiato sul collo al nostro tumore, il che vuol dire che esistono alcune peculiari forme di tumore con alcune caratteristiche di aggressività che oggi non vengono trattate, o meglio si suggerisce al paziente di non trattarle, perché poi la scelta, ricordiamocelo, è sempre del paziente, e queste non vengono lasciate al loro destino, ma vengono seguite periodicamente. Periodicamente vuol dire che se un paziente ha fatto una biopsia il giorno 1 gennaio 2017 e ha quelle caratteristiche per cui il tumore non verrà trattato con radio o terapia o con chirurgia, ma almeno il 1 di gennaio del 2018 quello stesso verrà risottoposto ad una medesima modalità diagnostica per capire se quella sua malattia abbia cambiato le proprie caratteristiche. E il PSA ancora una volta acquisisce importanza enorme, perché variazioni rilevanti di PSA sono già suggestivi di per sé della possibilità che la natura, le caratteristiche, il, diciamo, l'aggressività di quella malattia possano essere cambiate nel corso del tempo. Quindi sorveglianza attiva significa non già lasciare il paziente al proprio destino, ma significa tenere insieme al paziente il fiato sul collo, evitando però che almeno abbia origine, cioè fin dall'inizio, ci possano essere quelle sequele che, ahimè, ogni forma di terapia chirurgico radioterapica potrebbe portare. Direi potrebbe portare, potrebbe, perché oggi sappiamo che esistono numerose forme di aggressione alla malattia che sono totalmente esenti da grossi effetti, o con quantomeno il tecnicismo attuale ci porta a ridurli il più possibile. E non sto parlando solo di erezione sì o erezione no, come tutti pensano, perché le sequele possono essere le più varie nell'ambito della sessualità. Allora, prima di chiudere, vi ricordo che oggi, 28 aprile, è la giornata vittime dell'amianto. A 25 anni dalla sua messa al bando in Italia, l'amianto continua a mietere vittime. L'Osservatorio Nazionale Amianto, col suo sportello nazionale, con i suoi sportelli territoriali, prosegue la collaborazione che è nata con le istituzioni e l'assistenza per tutti i cittadini e i lavoratori, per chiedere soprattutto la messa al bando globale dell'amianto e la bonifica in Italia. Per questo l'Osservatorio sta continuando a monitorare la situazione. C'è una piattaforma web, www.onarepac.it, che censisce tutti i casi di patologie asbesto correlate, ovvero tutte quelle patologie che si sospettano abbiano origine dall'esposizione all'amianto. Noi naturalmente vogliamo mettere e mettiamo il link sulle pagine di Cuore Denari se volete saperne di più, ho guadagnato questo minuto per ricordare Alberto, di nuovo Alberto, senti, mi dispiace, oggi penso a Alberto Pellai. Credo di avere un attacco di gelosia profonda. Andrea, ricordiamo però che la metà delle neoplasie del tratto urinario, che abbiamo detto sono in aumento, sono causate dal fumo di sigarette. Proprio ieri, in occasione della presentazione del rapporto IOM, il ministro della Salute ha ribadito che per queste e per tante ragioni la battaglia contro il tabacco è proprio la prima battaglia di salute, e combattere il fumo è comunque un'arma di prevenzione. Ricordiamo che ci sono 80.000 morti l'anno a causa del fumo di sigarette. Ho anche imparato che in Australia ogni pacchetto costi $18. Io vorrei che costasse 25 euro. in Italia. Ecco, anche 30. Sì, poi ci sarebbero, no, tante altre cose da raccontare, da dire, e tante aiuti che si dovrebbero dare alla persona che ha sviluppato una dipendenza, certo, e che vuole smettere di fumare. Lo faremo. Di questo parleremo. Grazie ad Andrea, grazie Salonia, a voi. E salutiamo anche Alberto Pellai, che portiamo, sì, sempre nel cuore e nella mente. Noi torniamo martedì. Martedì, martedì, ma lunedì siamo qua con un meglio di. A presto.